Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Alessandro Longoni in redazione, Fabio Cantadori in regia. Ieri sera c'ero in giro, non so se siete d'accordo, anzi mi farebbe piacere saperlo da voi, dove eravate, se e con chi avete visto quanto c'è stato ieri sera. C'era in giro un'atmosfera da sbarco sulla Luna, sostanzialmente. In ogni angolo del mondo, immagino, ma per quello che ho potuto vedere io, in ogni angolo d'Italia dove c'era una televisione alle 9.35, erano tutti lì in capannello per vedere quei passi, che non era il famoso passo di Armstrong, ma erano 41 passi che hanno riscritto un po' la storia dell'atletica. 9 secondi e 58, la luna dell'atletica è stata conquistata ieri sera, e adesso io credo si possa puntare, almeno lui possa puntare, a pianeti ancora più lontani. Usain Bolt. Sono felice di aver vinto, era il mio obiettivo principale. 9.58 di certo è una gran cosa. Sono orgoglioso di me stesso perché sono il primo uomo ad aver fatto un tempo così. Sono davvero orgoglioso di aver fatto bene. Non scendo mai in pista pensando al lavoro fatto, ma corro per cercare di vincere e fare qualcosa di speciale. Questa era Usain Bolt. 800240024 è invece il nostro numero verde. Sul Corriere della Sera di oggi il nostro Giorgio Rondelli dà una lettura tecnica, tattica molto interessante della gara, mi sembra riduttivo, di ciò che ha fatto Usain Bolt ieri sera contro un grande avversario come Tyson Gay. Giorgio Rondelli parla di marcatura calcistica di Bolt su Gay. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a te. Perché sì, marcatura calcistica? È stato calcistico, però in effetti è stato così. Quale poteva essere il territorio preferito di caccia o di agguato di Tyson Gay? Uscire bene dai blocchi, precedere Usain Bolt e guadagnare nella fase di accelerazione e poi resistere nella fase lanciata, dove Bolt è straordinario, ma Gay altrettanto, è un grande duecentista anche lui, poteva farlo. Ebbene, si è dimostrato anche un grande agonista, un ragazzo anche intelligente, quello che ho scritto nel pezzo, sapeva di non dover dar spazio al rivale, addirittura l'ha annichilito dai 20-30 metri ai 60, gli è scappato via. Poi l'altro non si è arreso, perché poi alla fine le cifre che hanno cambiato la storia dell'atletica dicono che Tyson Gay ha corso in 9.71, secondo tempo all time della storia, però l'altro era davanti imprendibile con 9.58, veramente. Ho concluso il pezzo, ha portato in avanti i limiti fisiologici della macchina umana, sì. Perché questo ragazzo ha preso il record del mondo l'anno scorso e l'ha portato avanti di 15-20, una cosa incredibile. Un progresso così non c'era mai stato nella storia, un gap così. È entrato, no? Nella storia, voglio dire, mai si era visto, Carlo, comunque un corridore di 100 metri con la sua struttura di 1,96, con un'ampiezza, una falcata da quattrocentista, però con tempi d'appoggio rapidissimi, per cui solo lui si può permettere di fare i 100 metri, come tu hai ricordato in apertura di collegamento, con 41 passi, sì. Quindi è una legge proprio di biomeccanica, e così è. Certo che è stato uno di quei brividi cioè, che si sentono ancora sulla pelle, perché quando cioè, il pubblico, i 50-60 mila, è stata veramente un'emozione straordinaria di un ragazzo che, mi piace sottolineare, tutte quelle sue diciamo smorfie o comunque gli atteggiamenti prima di partire hanno addirittura condizionato positivamente anche gli altri. Mai nella mia memoria mi ricordo una Zappa Powell, vero, che si è rivolto sui blocchi di partenza, vero. Parte il buon Tyson Gay, Che invece non ha mai reso invito a se gli avessero comunicato chi ha vinto il 5+1. Neanche se gli fanno il solletico, ride Tyson Gay. Gli fanno il solletico. Però ognuno vive a modo suo la gara. Ti ricordi, Tyson Giorgio? Gay, addirittura posso annunciarvi che è in leggero dubbio per i 200 per un problema muscolare. Questo sarebbe un peccato. Sarebbe un vero peccato, perché i 200 potevano rischiare con Gay, che è più forte sui 200 che non sui 100, rischiavano di essere addirittura forse più eccitanti e emozionanti, questo testa a testa tra i due. Giorgio, sono d'accordo con te, i 200 sarebbero stati una sfida forse ancora più incerta, più carica di veleno agonistico. Bisogna vedere quanto si è allenato Usain Bolt per fare i 200, per fare meglio del 19.30 di Pechino dell'anno scorso, dove fu straordinario nei primi 100, 9.92, e poi fece un 9.38, ricordandosi che invece il Michael Johnson di Atlanta 10-18, ma poi corse addirittura in 9-14, una cosa sensazionale. Se riuscisse a fare Usain Bolt la stessa cosa, fai tu i conti, sarebbe a rischio la barriera dei 19 secondi netti. Tanto io ricevo messaggi che ricordano Gay terzo tempo nella storia, non secondo, scrivono due ascoltatori. Sì, no, tolto certo ovviamente il record di Bolt di ieri sera, 9.69, 9.71 e poi Bolt appunto record stampato, va letto in questo senso. Giorgio, ti volevo dire su quel modo di vivere la gara di Usain Bolt. Ti ricordi l'anno scorso c'erano state delle polemiche feroci alle Olimpiadi con Bolt, che era stato rimproverato dalle alte sfere del CIO per questo modo di comportarsi, in cui io non trovo niente di particolarmente fastidioso, anzi mi piace il modo di vivere la gara di Usain Bolt. Poi è un modo che lui ha per esorcizzare la tensione, per gestire quei momenti. C'è chi è come Gay, concentrato, come era Maurice Greene, faccia da pantera, concentratissimo, da belva in gabbia. C'è chi lo vive in un'altra maniera quella attesa. Io non trovo niente di inelegante nel modo di vivere la gara di Usain Bolt. Carlo, sono assolutamente d'accordo con te. Io ne ho anche un po', devo dire un po', adesso mi lascio un po' andare un po' le scatole piene di queste bacchettoni che vorrebbero irreggimentare tutto lo sport. L'atletica ha già una sua sacralità in termini di tempi, di misure. Abbiamo visto che anche gli altri finalisti stanno sposando la maniera di atteggiarsi di Bolt prima del via. In fondo, Carlo, basta, quando ti metti sui blocchi ti concentri, non c'è bisogno di essere la gara la vivi già, certo, un mese prima. Sono meno di 10 secondi, quando ti metti sui blocchi devi cercare di uscire più rapidamente allo sparo e dare tutto lì. Sovraccaricarsi di tensione quasi sempre è negativo, è controproducente. Sanno benissimo cosa devono fare, anzi è una maniera bellissima, io penso, anche per chi guarda, per il ragazzo della strada, di capire che si può diventare campioni anche epocali come Bolt, ma assolutamente non perdere una straordinaria gioia di vivere e magari di voglia di mettersi a ballare dopo aver fatto il record del mondo. Senti Giorgio, le dimensioni assolute di un personaggio sportivo sono date anche dalla capacità di resistere nel tempo al massimo livello. Io credo ci siano ancora, ma credo anche tecnicamente, questo me lo dirai tu, dei margini di crescita nelle potenzialità di questo straordinario atleta. Forse dopo le Olimpiadi di Londra, sicuramente con il tempo capiremo le reali dimensioni nella storia dello sport di Usain Bolt. Ma guarda, bisogna vedere, intanto lui è uno che era fortissimo da giovane, ha vinto un mondiale allievi con tempi straordinari sui 200 metri, poi ha avuto una serie di infortuni perché doveva mettere su una struttura scheletrica, un telaio con un motore muscolare davvero straordinario. Ci vorrebbero intanto dei grandi avversari, Carlo, perché è chiaro che i grandi avversari poi lo stimolerebbero. E poi bisogna vedere se lui ha voglia di estendere il suo dominio fino ai 400 metri, cioè 100-200 c'è già. Ma perché fino adesso è riuscito a gestire 19, e perché è forse il grande sogno, forse la grande ambizione potrebbe essere quella di essere il primo uomo a correre sotto i 43 secondi netti sui 400 metri. Se si applica, la può fare, però è quello che può fare la differenza, Giorgio. È quello che farà la differenza, cioè la capacità, la voglia che avrà ancora Bolt, che ha dimostrato in questo anno, dopo l'esplodere delle Olimpiadi, la voglia di crescere ancora, di lavorare ancora duramente per ottenere il risultato che abbiamo visto ieri sera. Quanto durerà questa voglia? La sua maniera di vivere, Carlo, sia quella che la può aiutare a far passare questi anni restando sempre ad alto livello. Questa maniera di vivere così, in maniera serena, l'agonismo e l'allenamento di altissimo livello. Alberto da Reggio Emilia, il primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Dica. Senta, io la chiamavo perché ieri sera sono convinto che abbiamo assistito a una gara straordinaria, probabilmente la più veloce di tutti i tempi. Però la chiamavo per commentare, scusi, gioco di parole, il commento di Stefano Tilli nelle batterie e nella semifinale, non so se l'ha sentito, quando diceva che non gli piaceva l'atteggiamento di Bolt sui blocchi per essere scantonato, così, che preferiva l'odio che c'era una volta fra Carl Lewis e Ben il Johnson, suo rivale Ben Johnson. Io l'ho trovato una cosa veramente allucinante, perché Bolt, oltre ad essere un grandissimo fuori classe, ha portato questo modo anche scherzoso di interpretare la finale, insomma è bello da vedere, l'ho trovato allucinante, quindi tutto qui volevo dirglielo. Io sono d'accordo con lei e credo anche Giorgio Rondelli, ne abbiamo appena parlato. Ne abbiamo appena parlato. Giorgio. Grazie, grazie. Dopo magari tante volte si dicono le cose dopo. Io ho parlato con i miei colleghi, con Fabio Monti del Corriere della Sera, dopo la semifinale gli ho detto: sono sicuro che fa il record del mondo, perché ha corso troppo rilassato. Cioè, si vedeva che sapeva di poterlo fare il record del mondo, cioè non ha voluto strafare, non capisco cosa vuol dire, ma perché dobbiamo pretendere dagli atleti un certo tipo di comportamento, un certo tipo di attenzione, di attenzione agonistica o correre la batteria? Cioè, ha fatto 10:20, ha fatto 10:03, ha fatto 9:89, ha fatto il record del mondo. Ha fatto la giornata perfetta. Una discesa più lineare di questa, cioè, non capisco perché avrebbe dovuto correre il 9:90, il primo turno, 9:80, 9:70, così si è caricato. Voleva una dimostrazione epocale e l'ha fatta, 10 lode e dico, proprio l'atteggiamento di molti altri sulla linea di partenza. Io non mi ricordo una finale olimpica o mondiale o quant'altro dove 4 o 5 dei finalisti fanno, cioè gli hanno fatto da partner in uno show prima di partire, che io ho trovato straordinario come poi è stata la gara. Sono d'accordissimo con te, caro Giorgio. Senti, per chiudere, per l'Italia si profila uno dei mondiali più difficili di sempre. Ieri fuori anche la Grenocci, resta Elisa Kusma, che tra l'altro questa sera alle, così facciamo anche un po' una elenco degli appuntamenti: alle 19:30 si corre la semifinale degli 800, poi alle 18:05 c'è il lancio del peso con Vizzoni, bravissimo a tornare in finale dopo tanti anni, dopo 6 anni, però senza chance di medaglia. Tra gli altri grandi eventi di oggi, 18:45 comincia a saltare Sua Maestà Irena Isinbayeva. Giorgio. Ma guarda, adesso sono proprio a casa Italia, c'è stata la conferenza stampa con la Di Martino, intanto che scende in gara domani con le qualificazioni, la Di Martino che si sente, è convinta di poter lottare per le medaglie, anche se ritiene, e qui il discorso tecnico ci sta, Fredic e Vlasic un gradino più in alto rispetto a lei, altre due o tre atlete che possono essere identificate nella Cicerova e nella BIT e nell'americana Chontiovar. L'Italia mi preoccupa perché al di là delle medaglie, che è sempre difficile da conquistare, qui stanno, sembra che sia passato il napalm e anche tutti gli atleti che potevano andare in una finale non sono arrivati qui, o in cattive condizioni oppure non hanno reso dal punto di vista agonistico. Quindi spedizione in termini di medaglie dimezzata dopo le gare di marcia, nonostante il bravo Rubino al quarto posto sulla 20 km. Adesso c'è la Di Martino e Svazzer, e poi bisognerà anche che il settore tecnico e dirigenziale della FIDA si metta intorno a un tavolo a ragionarci su un po' cosa può fare la Kusma. La mia sensazione dopo la batteria, che pure ha vinto, non è stata brillantissima. Aspetto la semifinale di oggi per vedere se era una mia sensazione da vecchio suiveur oppure è stata magari la tensione con cui la Kusma ha affrontato questo primo turno in un mondiale da cui lei si aspetta molto. Grazie Giorgio, ci sentiamo domani naturalmente. Buon lavoro. Saluti a Radio 24. Grazie a Giorgio Rondelli. Bolt è il Valentino Rossi dell'atletica, scrive tra i moltissimi messaggi un ascoltatore. Un altro scrive: nella semifinale secondo me ha fatto apposta la falsa partenza. No, non l'ha fatta apposta, però insomma, la tensione è altissima, anche se non sembra, visto l'atteggiamento di Bolt. Poi ci sono altri ascoltatori che seguono l'onda dell'ascoltatore che è intervenuto prima, Alberto da Reggio Emilia, dicendo: ho trovato fastidioso o inappropriato il commento tecnico della RAI, che sottolineava come non piacesse questo modo di Bolt di vivere la gara, che personalmente trovo estremamente spontaneo innanzitutto. Comunque sarà 800240024 il numero verde. Ieri è stata la domenica dei mostri, quelli che ti distruggono, ti fanno passare la voglia. L'immagine di Tyson Gay con gli occhi di fuoco dopo aver inutilmente dato tutto per essere ridotto al ruolo di tappezzeria, con il terzo miglior tempo di sempre, 9:71 sui 100 metri. Ma l'immagine di ieri, per quanto riguarda gli sconfitti, anche Jorge Lorenzo per terra dopo un errore da coscritto, da pivello, distrutto dall'impossibilità di Valentino Rossi, credo. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, ciao. Ciao a tutti. Sì, distrutto, è ormai un copione che vediamo da anni, no? Cambiano gli interpreti, ma la storia è sempre la stessa. Una volta c'è Gibernau, poi c'è Max Biaggi, poi Stoner. Che passa da un lettino all'altro, adesso sì, Orge Lorenzo che sembra un reduce, sì. No, davvero, è proprio così, è proprio così. La grande forza di Valentino, fra le mille qualità che ormai cantiamo tutti da anni, ormai senza più aggettivi, parole, idee, però è quella di sapersi tarare sull'avversario che ha, diciamo, dovendo fare un confronto con Bolt al tempo ha fatto il record del mondo, quindi c'è, diciamo, un metro assoluto. Di Valentino non sappiamo ancora che cosa può fare, lui si tara sul suo avversario, più l'avversario è forte più lui fa, ma io credo che a questo punto arrivasse il classico marziano, per dire un luogo comune, ma insomma non so chi, un supereroe, lui probabilmente si tarerebbe su di lui riuscirebbe a fare di più, perché quello che riesce a fare Valentino è davvero straordinario. Io non so se poi è una questione psicologica, no? Come noi diciamo da tempo, lui a lui non piace tanto questa cosa perché poi sminuisce le sue capacità tecniche. Io credo davvero che lui sia decisamente quello che guida meglio, che sa fare meglio questo mestiere e lo mette in pratica, certo, ogni anno con incontro interpreti diversi. Non dimentichiamo che Lorenzo è uno bravo, però è giovane, frenetico, diventa difficile correre contro Usain Bolt, correre contro Valentino Rossi. Ieri un po' l'ha ammesso Valentino dicendo: Lorenzo ha avuto un po' di frenesia, io per i rivali significo molto, battermi vuol dire togliermi il numero uno. Qualcuno c'è anche riuscito in anni diversi, come Aiden, come lo stesso Stoner. Io credo che una delle molle del Valentino Rossi attuale sia stata proprio quella che gli ha fatto scattare Stoner. Senz'altro, Stoner è riuscito perché, oltre a un'indubbia bravura, ha avuto a disposizione un pacchetto tecnico straordinario, differente, e questa è stata la grandezza della Ducati, cioè giocare contro Valentino con un armamentario completamente diverso, no? Quindi la Ducati, le Bridgestone, una filosofia, un approccio completamente diverso. Grazie a questo, anche perché Stoner è un ottimo pilota, la Ducati è riuscita e Stoner sono riusciti a fare quello che hanno fatto, ma diciamo in condizioni standard, diciamo, ecco, non straordinarie come quella dell'anno di Stoner o come quella dell'anno delle tasse il resto, Valentino rimane decisamente più forte, e c'è veramente il fuggi, cioè ormai gli avversari, è vero lì l'espressione di Gay è emblematica, no? Cioè quando sei di fronte a questi campioni poi ti chiedi forse dentro di te che senso abbia, certo, ancora correre, perché è vero che gli sportivi, il grande sportivo è sempre convinto di essere il numero uno, no? Cioè, però poi quando poi alla prova dei fatti tu dici faccio tutto alla perfezione, riesco a dare il 101% come la corsa di ieri di Tyson Gay, insomma fa 9,71, sì, e perdi nettamente contro questo, dici ma che cosa lo faccio per fare? Cioè, se non posso essere il numero uno, che senso può avere? Anche Lorenzo, no, nelle dichiarazioni della vigilia diceva, ha fatto delle dichiarazioni molto aggressive come al solito, anche perché tra poco ne parliamo, sta cercando un sedile credo diverso per l'anno prossimo. Dichiarazioni molto aggressive, e poi si trova lì sotto pressione quando già senti di avere il sapore del duello in mano e scivola via. Lo stesso Valentino Rossi a questo punto chiama gli avversari, no? Stoner, torna presto, sono sicuro che qui arrivavi sul podio, mi spiace che Lorenzo sia caduto, cos'altro può fare? No, lui non lo so, io ogni tanto gli dico adesso che devi fare Valentino, corri bendato, fai qualcosa, in retromarcia, all'indietro, sai come il circo, perché veramente deve darsi, no, sai cos'è, questa mi sembra un po' la gimondizzazione dell'atleta, no? Cioè il famoso eterno secondo, poi adesso è una banalità da dire, ma quando hai davanti il Merckx della situazione, poi la tua carriera diventa così. Tra l'altro devo dire che Lorenzo nelle sue dichiarazioni non è che fosse poi impazzito o particolarmente spaccone, perché tecnicamente lui nel weekend andava meglio, quindi c'è anche queste meravigliose imprese che fa Rossi con la sua squadra di cambiare poi le carte in tavola, o perlomeno di arrivare al top quando serve, cioè nella gara, per cui lui utilizza il warm up, utilizza il venerdì, va per piccoli passi eccetera. Molto spesso i suoi atleti, i suoi avversari si sono illusi, no, di poterlo battere, proprio perché magari o avevano preso la pole, non in questo caso perché ce l'aveva Valentino, comunque avevano delle performance migliori il sabato eccetera, poi puntualmente lui la domenica, perché è un animale da gara, perché è il più forte, perché appunto è come Bolt, come i grandi dello sport, poi alla fine vince sempre lui. Ha detto ieri una cosa interessante, gli è stato detto: è vero che tu in gara poi guadagni due decimi e gli altri per colpa tua li perdono, insomma, e non è solo un fattore, come dire, aritmetico. E lui fa: sì, sì, beh, probabilmente proprio così, insomma, lui stesso non ha potuto fare il non c'è difesa. Cioè il fattore gara cambia lui, automaticamente mette in croce gli altri. Sai, il mondiale è finito, lo sanno benissimo anche i bookmaker, che non sbagliano mai. Valentino Rossi, campione del mondo, è quotato a 1,02-1,01, vuol dire che giocando 10 euro si guadagnano 10 centesimi, insomma, sì. State alla larga da questo tipo di scommesse. La parola più frequente che ho sul display dei messaggi è valentinite, ormai è un neologismo di uso comune. No, Alessandro, prima di salutarti volevo fare una parola sul futuro della Ducati, perché Stoner tornerà, io suppongo, competitivo, io penso, però ci sono dei margini di incertezza. Ieri si parlava con Mario Poltrone della Ducati, che deve da squadra di vertice, da anti-Amaca, da anti-Valentino Rossi, deve cominciare da oggi a progettare un futuro differente. Certamente, la Ducati ormai non è un mistero, sono stati dei contatti con Jorge Lorenzo. Ora bisogna capire da parte di Lorenzo se è la solita manovra per poi alzare i prezzi e poi alla fine rinnovare con un congruo aumento con la Yamaha, o se c'è poi la possibilità di un progetto. Io credo che in Ducati ci stanno pensando seriamente, con o senza Stoner. Ora io ti dico, la coppia Stoner-Lorenzo a me sembra un po' difficile da gestire, però l'esperienza di Valentino Rossi e di Lorenzo quest'anno dimostra che avere due, diciamo, numeri uno, anche se come vediamo non uguali, ma comunque due stelle, grossi campioni, due e grosse personalità nello stesso box, alla fine in questo caso ha portato dei risultati notevoli per entrambi, perché poi alla fine vincono sempre loro, cioè ha alzato notevolmente il livello di una moto che era già la migliore del lotto. Quindi è una coppia che si può fare, a maggior ragione se, come dicono dei rumor a cui io non voglio dare credito, perché io voglio dare credito a quello che dice la Ducati, essendoci di mezzo la salute e tutto il resto, ma se Stoner non dovesse tornare, allora a maggior ragione ha senso l'ingaggio di Lorenzo, perché la Ducati non può non avere un top rider, no? Certo, quindi esclusi, questo è matematico, appunto, perché sennò vorrebbe dire un ridimensionamento. Quindi ci può stare assolutamente. Loro in questo momento sono in difficoltà, perché è chiaro che la situazione di Stoner è tutta da capire, da monitorare, da comprendere. Credo che si saprà qualcosa di più, è banale dirlo, ma è ovvio, all'Estoril, cioè quando è stata fissata la data per il rientro di Stoner. Dovesse rientrare, si vede. Non dovesse rientrare, io credo che la via di Lorenzo potrebbe essere l'unica percorribile, percorsa, però l'unica anche lì, ti ripeto, poi allora bisognerebbe guardarla dal punto di vista di Lorenzo, perché gli vale la pena per lui rischiare. La Ducati è una moto difficile, una moto, cioè vorrebbe dire forse perdere un altro anno, io credo, per adattarsi. Con un Valentino così, chissà se lo puoi battere di più con la Ducati o con i suoi stessi mezzi. Qui è filosofia. Sì, no, no, è filosofia, quindi... però non c'è una risposta precisa. L'unica cosa certa è che è la stessa Ducati che appunto deve cominciare da subito a progettare un futuro che non può che essere da competitor principale di Valentino Rossi. Io ringrazio Alessandro Pasini, grazie davvero Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Grazie. Ricordo i nostri contatti: 800 24 00 24, il numero verde, messaggi 349 238 6666. Dopo la domenica dei marziani, di cui abbiamo parlato fin qui, Bolt Rossi, il lunedì del Berlusconi. Il primo pensiero che mi viene in mente è che anche per il dopo spiaggia televisivo degli italiani sarà un po' come passare dal mojito alla gazzosa. Saluto e ringrazio Maurizio Crosetti, inviato e firma importante di Repubblica. Ciao Maurizio. Buongiorno, ciao. Dai marziani al Berlusconi passo è tanto, No, per la serata televisiva. No, lui è un marziano, quindi è un alieno, secondo me, quindi direi che sono cugini. Senti, lunedì prossimo apre il Bar Sport calcistico e questi sono i giorni dei domandoni che autorizzano risposte multiple e tutte corrette, secondo me, perché tra viaggi a ricerca di soldi facili, preparazioni sincopate, mercato in divenire, le prime di campionato credo saranno una prosecuzione del calcio estivo, come scrivi oggi. Sì, non avremo risposte fino a Pasqua, dai, esageriamo. No, non avremo risposte sicure fino almeno all'autunno, perché l'estate è stata contraddittoria. E perché è contraddittoria la storia nuova per certi versi di quasi tutte le squadre e soprattutto delle tre grandi di cui ci interessiamo di più, per capire se sarà un campionato, come tutti dicono, a tre, come molti dicono a due, come qualcuno dice, a uno, che quell'uno sarebbe l'Inter, quindi sì, le prime giornate sotto l'ombrellone ci dovranno dire cose che non ci diranno. Certo, il Milan, al Milan non c'è certezza nemmeno sul numero delle sconfitte. Abbiamo sentito Leonardo, poi magari ve lo faccio sentire, che dice, ma tra rigori triangolari con partite di 45 minuti che non possono fare testo, e io su questo sono d'accordo. Insomma, si dibatte sul 5 sconfitte, 8 sconfitte, questione di lana caprina. Resta il fatto che sulla casella delle vittorie non c'è nessuna contestazione. È divertente questo, dimostra che il Milan è stata la squadra più regolare nel precampionato. Non c'è dubbio. Quantomeno questo. Potrebbe esserci contestazione questa sera a San Siro, anche se ritengo più probabile il deserto delle poltroncine vuote. Sarà il Berlusconi più inedito che si ricordi questo. A suo modo è una contestazione anche quella, però, perché anzi l'indifferenza... La più intelligente delle possibili. Sì, ma comunque anche la più acuta, perché l'indifferenza, questo riguarda tutti i rapporti umani, è assai peggio dell'odio, della reazione rabbiosa, perché in quel caso dimostri che ti interessa ancora, no? Un po' pensate in amore, quello che capita, quando non ci si guarda più, si guarda la televisione la sera. Direi che i tifosi del Milan rischiano di diventare dei vecchi coniugi col telecomando in mano. Sì, Juventus che deve crederci in questa stagione, in questo scudetto, forse oltre ogni ragione, lo scrivi tu stesso oggi, la sua forza dovrebbe essere centrocampo, peccato che il centrocampo non si sia al momento mai visto. E poi intorno alla Juventus c'è qualcosa che non riesco a capire, che è sempre questa strana aria di contestazione alla dirigenza da parte della sua tifoseria. È una situazione strana, è una squadra strana la Juve, da quando le è capitato quello che le è capitato, ha recuperato terreno, è rientrata in qualche modo, è risalita dalla B, però manca ancora un'identità precisa, non è più quella che era, da un certo punto di vista bisognerebbe dire per fortuna, però in campo questo pesa molto, i tifosi, credo anche i giocatori, cioè adesso c'è insomma questo rilancio di entusiasmo che probabilmente è persino esagerato ed è figlio della tanta fame arretrata, no? dell'essere stati tanto indietro in questi anni. Nessuno sa davvero quanto valga la Juve, che pure ha speso molto, e io sinceramente però non credo che sia già lo scudetto. Per chiudere, Maurizio, io sempre sul fronte dei domandoni e delle previsioni, mi aspetto all'inizio di questa stagione strana, molto, molto corta se volete, perché quella che precede i mondiali, mi aspetto una mini fuga da outsider nei primi mesi del campionato. Non so se sarà Genoa, Napoli, Udinese, Roma, Lazio, Palermo, la Fiorentina non credo, perché mi sembra che abbia altri problemi, però potrebbe essere aria da mini fuga fino a novembre. Sì, mini fuga forse tanto, ma indubbiamente il riaffiorare oltre il pelo dell'acqua di qualche narice che cerca aria e che non pensava di poter avere, sì, credo che avremo qualche cosa di inedito. È sempre così nelle stagioni che precedono, forse di più in quelle che seguono il mondiale, ma anche in quelle che precedono, perché poi molti giocatori fanno i furbi, molti campioni tirano indietro la gamba, pensano agli affari loro in prospettiva mondiale, molti stranieri lo fanno, questo bisogna dirlo. E quindi sì, c'è da augurarci che tu abbia ragione, perché altrimenti se di nuovo fosse la stessa lagna, e non si offendano i nerazzurri, non è una critica. No, è una considerazione. Il fatto che vorremmo magari divertirci un po', no? Vorremmo essere in dubbio sul nome del vincitore, almeno fino a Natale, almeno fino alla Befana, dai, fino alla Befana. Sì, facciamo così, fino alla Befana. Grazie Maurizio, buon lavoro. A voi. Alla prossima, grazie Maurizio Crosetti. Abbiamo un ascoltatore che è Antonio da Taranto, un sacco di messaggi SMS, ripeto, ricordo i nostri contatti, 800 24 00 24, chiamate, messaggi 349 238 6666. Antonio, buongiorno. Antonio, salve, buongiorno, a parte i normali complimenti per la trasmissione. Grazie. No, io volevo intervenire, mi dispiace, dopo una cosa così bella come la finale dei 100 di cui si è parlato, parlare di un argomento un po' meno simpatico. Io leggevo oggi i giornali, leggevo i giornali sportivi e ho letto gli articoli che parlavano del ministro Maroni, che ha detto che è obbligatoria, renderà obbligatoria la tessera del tifoso. Sì, non l'ha detto oggi però, l'ha detto già un po' di tempo fa, che poi non si adattino. Ah, beh, io ho letto i giornali. Sì. No, Antonio, lei ha ragione, è sui giornali di oggi con ampio risalto, io ho anche diversi messaggi che fanno riferimento a questo. Sta di fatto che la normativa, che le direttive che sono state impartite sono risalenti nel tempo, che poi i club non si siano o non siano stati in grado, non abbiano voluto adeguarsi, questo è un altro discorso. Prego Antonio. No, io mi riferivo, ho letto le reazioni dei tifosi, ho letto che si voglia organizzare una manifestazione a Roma e soprattutto ho letto una frase che mi ha messo un po' d'angoscia. Sì. cioè ho letto che questi tifosi hanno detto questa legge, questo regolamento è per noi un pericolo. Cioè lo Stato cerca di intervenire in qualche maniera, poi uno può essere d'accordo o meno sulla tessera, ma lo Stato cerca di intervenire per evitare le violenze e questi signori lo considerano un pericolo, cioè evidentemente sono veramente convinti che la curva e tutto ciò che ha a che fare con la curva, comportamenti e tutto ciò che ha a che fare con la partita la domenica è territorio loro e nessuno deve intervenire, soprattutto lo Stato. Cioè questo concetto di è un pericolo che lo Stato intervenga. Pericolo, cioè, bisognerebbe intendersi sul... Anche perché poi la maggior parte di questi signori che con questa nuova tessera resterebbero fuori dagli stadi sono quelli che hanno già avuto denunce, sono sì. stati incarcerati o comunque hanno avuto il DASPO. Sì, cioè... sì, sì. No, ma sono d'accordo. Antonio, poi bisogna intendersi sul concetto di pericolo. Pericolo per cosa? Se per le loro attività malsane ben venga la tessera del tifoso. C'è anche chi scrive però... Paolo da Roma, pericolo per i diritti civili, insomma è una schedatura in piena regola, ovviamente per obiettivi importanti. Io mi limito a notare questo, mi limito a notare che se uno di voi questa sera vuole andare a vedere una partita in cui non penso ci sia grosso pubblico e nemmeno grossa animosità, visto siamo il 17 di agosto, amichevole, eccetera, eccetera. Se uno vuole andare stasera allo stadio, è un problema. Cioè non... diventa sempre più difficile, sempre più complicato, comunque sempre più laborioso l'accesso agli stadi. Fotocopia del documento e tessera del tifoso e poi il biglietto, il tornello, eccetera. È chiaro che sono nel complesso e per l'intero sistema secondo me dei palliativi, bisognerebbe arrivare a sistemi totalmente differenti che però passano necessariamente attraverso l'unica cosa che non abbiamo e che probabilmente non avremo mai, e cioè degli stadi civili, sottolineo civili, perché provate, l'altro giorno davanti allo stadio di Brescia, non era giorno di partita, semplicemente passavo di lì, lo guardi e dici ma qui siamo in Italia, Brescia, questo è uno stadio di calcio di un club di Serie A, di Serie B, insomma siamo al terzo mondo, eh. Provate a farvi un giro per l'Europa, a passare davanti a stadi spagnoli, portoghesi, francesi, c'è una differenza abissale. Io credo che il vero modo per risolvere alla radice, per rendere il calcio finalmente qualcosa di fruibile, di divertente da andare a vedere, sia quello di stadi belli, comodi, di proprietà, sicuri. E lì non arriveremo mai. Abbiamo le tessere del tifoso, i tornelli, i biglietti nominali, le fotocopie dei documenti e tutto questo, ma è un girare intorno al problema, un problema che non riusciremo mai a risolvere, se non attraverso queste aspirine. Enzo, provincia di Carbonia, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, la mia considerazione è questa. Vedendo il Milan, io ammetto che sono tifoso della Juventus, ma vedendo il Milan e vedendo il comportamento dei giocatori, io ho la sensazione, quasi la certezza, che stiano in pratica remando contro Leonardo. Perché evidentemente si sono resi conto che il vero allenatore lì è Tassotti, che conosce bene l'ambiente, che ha l'esperienza di Ancelotti. E i giocatori hanno detto, stavolta il nostro patron Berlusconi ha sbagliato, si è innamorato di Leonardo dal punto di vista fisico, ma evidentemente ha sbagliato dal punto di vista tecnico. Questa è la mia considerazione, una considerazione... No, che Leonardo sia un bel uomo non ci piove, ma io non penso che sia così, Enzo, non ho questa impressione, semplicemente ho la sensazione che il Milan sia una squadra terribilmente indietro di condizione, che come scrive oggi giustamente tra gli altri Mario Sconcerti sente in maniera evidente la mancanza ormai da mesi di quello che è rimasto il suo più forte fuori classe almeno in potenza, cioè Pato, che si è perso tra le nebbie della fine dell'inverno e da là non è ancora riemerso. Insomma, si nota in maniera terribile l'assenza di quel fuori classe di Kakà che era in grado di cambiare la squadra. Ronaldinho ancora non si vede, Ronaldinho non so se si vedrà ancora, tra poco sentiamo Leonardo che ha detto cose molto corrette su Ronaldinho e dunque non credo proprio, anzi ho la certezza che non ci sia questo atteggiamento ostile nei confronti di Leonardo, che è persona intelligente, che è uno del gruppo, che è uno ben conosciuto da tutti i giocatori, che ha giocato con molti di questi senatori, dunque io non penso proprio ci sia questo tipo di atteggiamento. Semplicemente il Milan, complici complice l'estate difficile tutta intera tra viaggi, un mercato problematico, la partenza di Kakà eccetera, un Milan che è molto molto indietro come condizione. Qual è l'obiettivo finale? Io non so dirlo, probabilmente non lo sa nemmeno Leonardo, o se lo sa non può ammetterlo. Prendiamoci chiaro, questo Milan non è squadra da scudetto, tantomeno da Champions League. A proposito di Leonardo, inutile che continui a raccontarvi le sue parole, ve le faccio sentire, a cominciare dall'argomento che trattavamo prima, quello della conta delle sconfitte. La base della squadra è quella che abbiamo già. Dopo, se riesce a fare un qualcosa fino alla fine del mercato, questo sarà sicuramente un ritocco. Non siamo mai riusciti, diciamo, ad avere tutti i giocatori disponibili sin dall'inizio, no? Quello che non voglio è star qui ad elencare delle cose per giustificare il dato di fatto che noi non abbiamo vinto, no? Anche se c'è da contare bene queste sconfitte, io sento 8 sconfitte, comunque sono stati pareggi in mezzo, tornei, cose diverse, no? Allora di sconfitte vere 90 minuti io credo che sono 5, sono già tante, Questo era Leonardo sul primo capitolo. Il secondo capitolo, sempre d'attualità, è quello relativo a Ronaldinho. Ronaldinho deve prendere le sue responsabilità, è un giocatore di grande talento che ha fatto tanto, l'impegno credo che a suo modo sta mettendo, dopo secondo me ci vuole la costanza nelle partite, quello è una cosa che deve crescere, però io credo che lui va valutato come tutti gli altri e credo per tutto quello che è successo in questo momento forse è prematuro fare una valutazione o un giudizio specifico, siamo quello o non siamo quello. Io credo che se metteremo tutto veramente che abbiamo, io credo che possiamo fare una buona stagione. Questo era Leonardo, però per par condicio sentiamo anche una battuta di Ferrara su una gara di quella di stasera nella quale troverà finalmente la sua stella del mercato, cioè Diego. Non so in quali condizioni, proveremo a capirlo. Ferrara. È un torneo che si ripete da tantissimi anni e che ormai è diventata una tradizione in un palcoscenico come quello di San Siro, spettacolare, quindi la Juventus generalmente a San Siro ha fatto sempre delle grandi partite e ci auguriamo che sia così. Io ho più volte detto che vorrei e voglio una squadra che non ci sta a perdere, mai. Poi capiterà, perché capiterà di sicuro, però è quello lo spirito che ci deve animare anche in partite e in tornei come questo. Non possiamo andare a San Siro, insomma, e accontentarci, vogliamo andare e cercare di vincere al di là di quello che dice poi la tradizione per quello che riguarda il campionato. Sapete, non la tradizione, chi alza il trofeo Berlusconi poi non vince lo scudetto, così vuole l'iconografia classica intorno al trofeo di questa sera. Cristiano Ruiu, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti Cristiano, cosa ti aspetti questa sera innanzitutto intorno alla partita? Quale tipo di ambiente ti aspetti? Ma intanto non ci sarà, credo, una grande risposta da parte del pubblico, visto che già la data è un po' infausta, proprio a ridosso di Ferragosto, ma soprattutto a differenza di altri anni non c'è certo quel grandissimo entusiasmo che c'era, ad esempio, che si respirava anche l'anno scorso, quando il trofeo Berlusconi fu la prima San Siro di Ronaldinho, per esempio, e sicuramente lì c'era grandissimo entusiasmo. Stavolta da parte dei tifosi milanisti non ce ne sarà di certo, magari un po' di più da parte di quelli juventini, che a Milano lo sappiamo sono tantissimi, per vedere per la prima volta all'opera Diego. Per quanto riguarda la contestazione non ci sarà, almeno da parte del tifo organizzato rossonero, trattandoci comunque di un impegno amichevole, il campionato comincia la settimana prossima, non c'era contestazione organizzata di nessun tipo. Ciò non toglie che qualcuno possa esporre striscioni, intonare cori così in maniera indipendente di contestazione, sì. Dopo questa campagna acquisti deludente, questo precampionato che non definirei deludente, sarebbe un eufemismo, ma veramente disastroso. A questo proposito io credo che sia centrale questa sera la presenza del presidente Berlusconi, che come sempre ogni anno al trofeo Berlusconi ci tiene a essere presente, ci tiene a consegnare la coppa in memoria di suo padre Luigi e a testare le condizioni della squadra, che fino a questo momento sono state veramente molto molto negative. Lui era stato a vedere la prima partita di questo precampionato, l'unica vittoria quella di Varese lo scorso 10 luglio, e adesso viene a vedere l'ultima apparizione. In mezzo c'è stato un Milan che non ha fatto nessun progresso, anzi è semmai regredito in alcuni elementi, ad esempio Ronaldinho, e una condizione generale che preoccupano un poco il presidente del Milan. A questo proposito, se stasera dovesse andare male, il Milan dovesse ripetere ad esempio le figuracce fatte nel trofeo team non più tardi di 3 giorni fa, non escludo una bella strigliata da parte di Berlusconi, strigliata che è già arrivata telefonicamente dopo l'amichevole di Lisbona contro il Benfica e dopo il trofeo team, anche di persona negli spogliatoi. Non dico che ci possano essere già dei provvedimenti da parte di Berlusconi, ma sicuramente un irrigidimento. Sì. Cristiano, hai notizie sull'andamento della campagna abbonamenti invece del Milan? Campagna abbonamenti è in netto rilento, procede nettamente a rilento rispetto alla scorsa stagione. L'anno scorso intorno alla metà di luglio era arrivato l'effetto Ronaldinho, che aveva portato una vera e propria impennata agli abbonamenti. Quest'anno non c'è stato questo effetto, non ci sono dati ufficiali, trapela però il dato che ci sia un 20-25% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Diciamo che il piccolo beneficio quest'anno il Milan l'ha avuto con l'uscita dei calendari, perché con il derby alla seconda giornata di campionato tanti magari si sono affrettati a fare la testa, hanno deciso di fare l'abbonamento se non altro, come si dice in gergo, tra virgolette, per pagarsi il derby. Sì, quello è stato un credo che senza il derby la seconda giornata la campagna abbonamenti del Milan sarebbe andata anche peggio. Ancora peggio, sì, esatto. Invece dimmi. No, dico, questo testimonia l'assenza assoluta di entusiasmo che c'è attorno alla squadra, ma mi pare di vedere anche l'assenza di entusiasmo all'interno della squadra, lo si è spiegato nelle ultime partite. Io personalmente ero a Pescara, l'ho visto anche al trofeo team di venerdì, non c'è grande entusiasmo all'interno della squadra, non c'è tanta voglia di stupire, perché un successo del Milan quest'anno, una buona stagione del Milan quest'anno sarebbe, desterebbe sicuramente stupore, nessuno si aspetta una buona stagione da parte del Milan, ma non vedo questa voglia di stupire, di entusiasmare da parte della squadra. L'unico momento felice è stata la visita di Kakà ieri a Milanello, e anche qua credo che il Milan debba, sia con i tifosi sia soprattutto con i giocatori, staccarsi definitivamente dal ricordo di Kakà, dal ricordo di Maldini, dal ricordo di Ancelotti, per cominciare un ma vedi, nuovo ciclo. Cristiano, vedi, questa squadra stessa è un po' un ricordo del passato, esatto. No? Lo stesso Leonardo ha detto, qui ci sono giocatori che hanno una carriera importante alle spalle, che hanno vinto tutto, un mondiale compreso, sono qui da molti anni. Si tratterebbe solo di ricaricare le batterie motivazionali, eccetera, eccetera. Però questa stessa squadra ho l'impressione sia un po' un affresco di quello che è passato, che non sia capace, non sia in grado o non possa voltare pagina, perché ci sono molti contratti molto pesanti ancora a carico, e sono contratti difficili da cedere. Il primo che mi viene in mente è Ronaldinho, ma vale anche per tutti gli altri senatori che sono ancora lì da molto tempo. Per chiudere, Cristiano, quale partita ti aspetti sul campo invece questa sera? Anche quale atteggiamento della Juventus? Sì, mi aspetto Milan che finalmente tiri fuori la rabbia e gli artigli. Da componenti dello staff tecnico trapela l'indicazione che quello che si vedrà in campo stasera, sia dal punto di vista tattico, sia come uomini, sarà il Milan che giocherà poi sabato a Siena. Quindi con i 4 difensori, l'esterno destro dovrebbe essere ancora Jan Kulowski, visto che anche qua non sono arrivati, diciamo, fondi e non si sono stati trovati accordi per prendere un nuovo terzino sinistro. C'è questa idea di abbassare Abate sulla linea dei terzini, cosa che farebbe piacere al giocatore, che però non convince particolarmente lo staff tecnico. 2 mediani che questa sera saranno Gattuso e Flamini. L'altro problema è quello degli infortunati, perché Ambrosini ancora non sta bene, Sedov non sta bene, Di Gennaro ha avuto questo brutto infortunio. Pirlo, che a differenza di quanto faceva con Ancelotti, questa è la vera, l'unica novità tattica, agirà non più davanti alla difesa ma davanti ai 2 mediani, quindi immediatamente alle spalle del tridente, che da oggi in poi sarà tridente classico, quindi non più Ronaldinho alle spalle delle 2 punte, Pato e Huntelaar, ma Ronaldinho a partire da sinistra, con Pato che partirà da destra e Huntelaar centrale. Quindi l'esperimento di Ronaldinho trequartista quest'estate è fallito, anche Leonardo lo ha capito, e allora è tornato sul tridente con Ronaldinho che parte dalla sua posizione, dalla sua zona preferita, sacrificando, questo bisogna dirlo, Pato, che invece parte dalla zona che meno gradisce, cioè quella di destra. E stanno provando proprio tutte con Ronaldinho, e poi vediamo come va a finire. Ecco, il rischio grosso, è, ripartendo proprio da Pato, è che il capitale sia economico sia tecnico che ancora tiene il Milan nel novero delle grandi è proprio costituito da Pato, che dovrebbe raccogliere l'eredità di Kakà esattamente come Kakà aveva fatto quando era apparito Shevchenko. Partire, cominciare la stagione non mettendo Pato nelle migliori condizioni per esprimersi al 100%, per fargli fare gol, per farlo giocare vicino all'area, credo che sia già un piccolo rischio. Sono d'accordissimo con te. Grazie Cristiano, alla prossima. Grazie a voi. Grazie Cristiano Ruio, chiudiamo con gli ascoltatori. No, sono d'accordo su questo, insomma, oggi il giocatore più importante del Milan e per il futuro del Milan è senz'altro Pato. Ne parlavamo prima, Pato ha giocato un brutto finale di stagione, si è un po' perso, ripetiamo, nelle nebbie di fine inverno, non è ancora riemerso in questo inizio di stagione, è stato onestamente il più deludente del Milan e credo appunto che sia non Ronaldinho, non nessun altro, ma Pato la garanzia, la polizza di assicurazione sul futuro del Milan, il giocatore più importante dal punto di vista economico e credo anche dal punto di vista dell'immagine del Milan sia proprio Pato, e quindi insomma è proprio questo giocatore che dovrebbe essere messo nelle migliori condizioni per uscire da quelle nebbie. Abbiamo Franco dalla provincia di Milano e poi Marco da Salerno in linea. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno, adesso so tutto del Milan. Sì. Pato lo cercava anche Ancelotti, se glielo danno forse facevano un affare. Forse sì. Parliamo di ieri. Cioè ieri e ieri l'altro hanno fatto la 20 km di marcia, una competizione faticosissima in un'ora impossibile. Cosa ne dice? Adesso sono d'accordo. A mezzogiorno e gli uomini alle 13. Una cosa, dico, lo scoprire la Rigaudo, l'avessero fatta alle 9, sarebbe stata l'ora normale, sarebbe arrivata quasi certamente in zona medaglia. Ma, sì, ma una cosa folle. Infatti Franco, però sono atleti professionisti e gli orari della gara erano noti da tempo, quindi anche su quello ci si deve tarare quando si è atleti professionisti, anche su questi che sono solo nella forma dei dettagli, in realtà sono parte sostanziale ed integrante della gara. Dunque è chiaro, poi c'è l'atleta che soffre di più le condizioni meteorologiche come quelle di ieri a Berlino, ci sono atleti che col caldo fanno meno fatica, riescono a gareggiare meglio, poi dipende dalle caratteristiche del singolo atleta, però ci si deve preparare anche da quel punto di vista. Quindi Lisa Rigaudo è stata sfortunata nel beccare una giornata di caldone, però l'ora della gara erano ben noti, quindi io credo sia preparata anche per questo. Semplicemente i nostri marciatori, Becce Rubino che ha fatto un buon quarto posto, lo stesso Brugnetti che si è ritirato, e non abbiamo tantissimo da calare sul tappeto berlinese per quanto riguarda il discorso medaglia, un peccato. Marco Salerno, buongiorno. Marco? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire sulla tessera del tifoso. Sì. Premettendo che sono iscritto, voglio dire, a un'associazione che si chiama Tifosi contro la violenza, per cui lungi da me voler contrastare ciò che si fa. L'obiettivo finale, chiaro. L'obiettivo finale. Questo fenomeno. Io penso che la tessera del tifoso abbia dei profili di criticità assolutamente allucinanti per un paese civile dal mio punto di vista. Il primo è che si poteva fare tranquillamente a meno di una tessera di un circuito di carta di credito, ma bastava magari velocizzare quelle operazioni di informatizzazione della pubblica amministrazione con una carta di identità elettronica, si poteva svolgere la stessa funzione che di fatto è una schedatura tra virgolette di coloro che accedono agli eventi sportivi. Sì, sì. La seconda cosa invece che mi pare ancora più grave è quella che un condannato o anche non condannato, magari condannato in primo grado e assolto in Cassazione o nei gradi successivi, nel 1990 non può accedere allo stadio a vita. Mm-hmm. Cioè, noi se non verrà corretto questo tipo di meccanismo, ci ritroviamo ad avere una esclusione a vita dagli stadi. Anche questo è una, insomma, cade nella crinale tra le due leggi ed è un aspetto da prendere in considerazione. Io mi limito sul primo punto, non ho nulla da eccepire, mi sembra un sistema molto cervellotico. È chiaro che tutti insieme vogliamo l'obiettivo finale, no? Però non sono ancora convinto che questa sia l'unica strada possibile per perseguire quell'obiettivo finale che tutti vogliamo. Magari torniamo a parlarne domani, adesso però chiudiamo qui. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per le vostre telefonate. Grazie ad Alessandro Longoni per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadore in regia. Ci sentiamo domani alle 14.